Ad oggi le uniche risorse finanziarie che abbiamo potuto utilizzare in questi 2 anni sono quelle del cofinanziamento regionale, sono mancate del tutto le risorse dello Stato. Nei giorni scorsi il ministro Clini, almeno nel caso della mia regione, ha sbloccato, e credo di altre regioni italiane, ha provveduto a sbloccare una parte di questi fondi. Di quanti? Quanto è che ci fa parlare? Noi abbiamo dei piani regionali, nel caso dell'Umbria un piano regionale complessivo di 40 milioni di euro, diciamo ripartito per metà tra regione e Stato. Guardi, sono peraltro i piani più significativi in questo momento di interventi di opere pubbliche che noi abbiamo sul territorio. Le chiedo quest'ultima domanda. Voi chiedete ufficialmente o chiederete di sforare il patto di stabilità, di poter sforare? Ma questo sarebbe fondamentale. Cioè, io sono convinta che almeno le opere che servono a mettere in sicurezza le persone, come quelle sul dissesto idrogeologico o quelle riguardanti l'edilizia scolastica, quindi la sicurezza sismica, penso che sia opportuno che si rivedano le regole del patto di stabilità interno, perché nel caso della regione noi l'abbiamo proprio vissuta, ha spesso dei ritardi nel dare in appalto i lavori per evitare che noi superassimo il tetto dei pagamenti stabilito dal governo alle regioni.